Va ora in onda Lucciole nelle tenebre, da un'idea del presidio universitario Libera Bologna. Benvenuti a questa puntata di Lucciole nelle tenebre, che è l'ultima purtroppo. Con la morte nel cuore, qui Stefano, Margherita, Ilaria e Peppe. Certo che abbiamo passato dei momenti veramente belli come presidio quest'anno. Vero, vero. Tipo, dai, qual è stato il tuo momento preferito, Margherita? Coraggio. Il momento preferito, ultimamente proprio c'è stato il raduno, che è stato bellissimo, che abbiamo incontrato tutti gli altri presidi del centro nord. Ma tu non c'eri. Io c'ero al raduno, come ha fatto la barista. C'eravamo tutti. Peppe, c'eravamo tutti. Abbiamo imparato a fare i cocktail, lì e l'aria. Siamo carichi. Carichi, spritz, tutto spiano. Poi... Però il momento più bello qual è stato? Il momento più bello è stato quello dei abbracci, l'ultimo giorno. Non era l'ultimo, era il penultimo. Il penultimo, quello dove eravamo tutti ubriachi. Sera, infatti eravamo tutti ubriachi la mattina. Voi eravate ubriachi. Anche Peppe era ubriachissimo. Peppe si frega con una 0-2. Vengo qui una volta ogni tanto, queste figure davvero non è il caso. Come non è il caso? Dai, la radio mette la berlina tutti. Si parlava appunto delle cose belle di quest'anno, quindi... Vedere il nostro... referente così solido e sobrio. Te sappiamo che in fondo è un cuore, quindi cos'è che ti rimarrà nel cuore per quest'anno? Hai presente i messaggi che ti mandavo? Appunto, aiuto, parlavo proprio aiuto, di questo. Aiuto. Comunque sia, la cosa che mi è rimasta più impressa sicuramente è stato il viaggio all'Aquila. Io, come ho già detto nelle precedenti puntate, io sono già stato 4 anni fa. È stato molto intenso, come 2 giorni, no? 2 giorni molto intenso con la fiaccolata. Cioè, è stato un momento molto bello. La fiaccolata per cosa? Fiaccolata per l'anniversario da 4 anni della morte, del crollo della casa dello studente, del terremoto in generale. È stato un momento molto bello, anche formativo per tutto il presidio, per quelli che ci sono venuti. Eh sì, per quelli che ci sono venuti. Ma non è che... Io sono abruzzese, quindi non sono venuta, sono rimasta qui. L'orgoglio regionale, Però c'ero, ci sono sempre. Noi c'eravamo con il cuore, con la mente, con lo spirito. Esatto. Per te, Peppe, invece? Per me facciamo che ve lo dico dopo la prima canzone che mandiamo in onda oggi, che è per l'appunto... Summertime di Ella Fitzgerald. Vai con Summertime. Don't you cry. gonna rise, I'm singing. Yes, you spread your wings and you take to the sky. But till that morning, there's nothing can harm you. Yes, with Daddy and Mommy standing by. Fish are jumping and the cotton is high. Oh, your daddy's rich and your ma is good looking. Allora Peppe, dimmi, dicevamo... Cosa vuoi sapere? Dimmi, qual è stato il tuo momento... Momento? Il tuo momento preferito? Il best! Sì, il migliore! La best! La best! Allora, diciamo che la best l'ho vissuta insieme a Pietro, quando in tipografia all'Ortica abbiamo stampato il primo numero del nostro giornale che ciao, è già Pietro. Arrivato. Ciao Pietro! Saluto. Ciao Pietro! Ti amo Pietro! Dichiarazioni. E appunto vede il suo terzo numero stamparsi in questi giorni e lo troverete in tutte le sale studio, i luoghi di aggregazione culturale, sociale o pseudotale della nostra amata sì, Bologna. Abbiamo cercato di diffonderlo dovunque. Ma lo troverete spesso e anzi qualora non lo troviate scriveteci a presidio.unibo@libera.it. Le nostre ragazze saranno orgogliose di consegnarvelo a mano e di fissarvi anche un appuntamento. Che efficienza, un applauso. Yeah. Bravo Pat. Uno. Comunque davvero è stato un momento emozionantissimo. Vediamo scorrere quelle stampe sotto le nostre dita. Neanche ci credevamo che fosse un lavoro nostro. E speriamo che riusciamo a dargli una certa continuità anche più avanti. Sì, ma ora cosa facciamo? Ora che facciamo Ilaria? Quest'estate cosa facciamo? Ora arriva l'estate. L'estate, allora, esami, esami, esami, esami. È ancora esami. E poi dai, però inizia l'estate luglio... davvero. Cosa c'è a fine luglio? Io so che c'è un qualcosa di bello. A due passi da casa mia e si fa per dire. E a tre da casa mia. E a due forse da casa mia. Quattro da Stefano. Decisamente. Margherita attraverserà il Mar Tirreno a nuoto quest'estate. Sapete perché? Per andare in Sicilia, a Marsala, dove dal 25 al 29 luglio. Non era 24? Ah, dal 24? Dobbiamo controllare, intanto diciamo cosa c'è. Dal 24 al 29 luglio c'è il raduno nazionale dei giovani di Libera. Ole! Ole! E dove... E quindi andiamo tutti. Sì, appunto, il presidente in trasferta. Io non vi ci porto. Non ci separeremo mai. Un po' di entusiasmo. Non ci separeremo mai. Ma mai, l'estate. Mai. Che palle. Dai sì, però Peppe fai la paternale sul questo raduno dei giovani del presidi di Libera, però dai, c'è anche dell'altro. Come ogni anno, i campi. I campi dei beni confiscati. Esatto. Beh, sono delle esperienze molto belle che noi vi invitiamo a fare. Ma tu l'hai fatto, Ste? Io sì, l'ho fatto a San Giuseppe Iato, in provincia di Palermo, vicino a Partinico, 30 km. Che poi tra l'altro dovrebbero esserci ancora degli ultimi posti, quindi... Quindi affrettatevi. Certo, non vi dico com'è tornato Stefano, io non so fino a che punto è consigliabile fare pubblicità. Ma che cosa ne sai? Cosa ti hanno fatto fare? Mi hanno fatto praticamente lavorare in mezzo alle viti a rimettere a posto sui viticci. Poi Stefano con queste braccia possenti. Sì. Ah. Trattasi di volontariato, specifichiamo. Quindi, sì, sì, che non, bravo ragazzo. Non pagato. Bravo. Però è un messaggio sociale molto forte, perché comunque sia tu vai a lavorare nei campi e nelle aziende, nelle proprietà confiscate, che sono confiscate ai boss mafiosi fondamentalmente, quindi è un riutilizzo sociale. È notizia di oggi che è stato confiscato un aeroplano, chissà che non riusciamo anche a farci a un volare campo, eh? Sì, dai. No, non è uno scherzo. Ci andiamo a andiamo tutti assieme. Ma è un aeroplano turistico, dubito si possa fare, però. Vabbè, Beh, Peppe, adesso noi ti premiamo. Infatti, siccome ti abbiamo un po' bistrattato. Mi regalate un aereo? No, molto meglio. Molto meglio. Ti regaliamo una canzone. Oddio, cosa vuol dire una canzone? Puoi lanciare una canzone a frutta a tuo piacimento. Una delle tue, quelle che sono una delle mie? Sì, vai, vai. Oddio, non ci credo. Allora, la dedico al mio amico Max, Massimo Benassi, che ci ha dato una mano per tutta la festa. Mi aspettavo da lui questa canzone alla fine del loro mitico DJ set. Ma adesso è tutta per te, Max. Play Hard di David Guetta. Flow and just mop it. Show these gangsters how you pop lock it. Don't care what you got in your pocket. I peep the way that you rockin' with that thang thang. Girl, stop it. Wanna just bang bang and pop it while the club crowd are just watching. Work it out. Got a gang of cash and it's going all on the ball. Now work it out. And it's going fast 'cause I feel like a superstar. Now work it out. And you may not have it, I might have just broke the law. Now work it out. It's your turn to grab it and I make this whole thing yours. Now work it out. Said our hustler's work is never through. We making it 'cause we make it move. The only thing we know how to do. Said it's the only thing we know how to do. Work hard, play hard, work hard, play hard. We work hard, play hard, keep partying like it's your job. Work hard, play hard, work hard, play hard. We work hard, play hard, keep partying like it's your job. Hustle's work is never through. We making it 'cause we make. Dopo questa magnifica canzone di Peppe, grande Peppe, che sta ancora ballando. Scendi dal cubo, Peppe. Peppe, scendi dal cubo. A tutti i lustrini. Siamo in onda. Comunque vi volevamo dire che per andare a trovare delle informazioni maggiori sui campi dovete andare sul sito di Libera, www.libera.it. E appunto, dopo aver parlato di quest'estate, dobbiamo ricordarvi che da settembre saremo di nuovo qui con i nostri progetti, con la radio, con il giornale. E abbiamo anche qualcosa di nuovo, vero Marg? Verissimo. E un progetto molto molto bello che si occupa appunto di bellezza. Bellezza, Peppe, bellezza. Non come le brutte canzoni che ascolti tu. Davide, è bellissimo. E, sì, è un progetto che vedrà un sacco di ospiti come la Simona Vinci, Letizia Battaglia, che scoveremo in tutti Ditemi, i modi. Ditemi, se una ragazza che viene da Napoli può dire la Simona Vinci. La Simona Vinci, perché... Scusate, mi avete contagiato con... No! qui l'unico... Dai, la Simona Vinci. E quindi poi ci sarà Letizia Battaglia, che cercheremo di scovare in Sicilia in qualche modo. E andremo a riscuoterla da Marsala. Poi ci sarà Pippo Ciorra. Ci sarà Tommaso Montanari e anche Settis, Salvatore Settis ci ha dato la sua disponibilità. Il 2 giugno lo abbiamo rincorso, gli abbiamo stretto la mano, glielo abbiamo chiesto. Che meraviglia. Che meraviglia. A gran voce. Sì, stavamo quasi svenendo. E però lui ci ha detto. Con un ammaliante sorrisino, Salvatore sì. Settis saluta Francesca e. Ci ha detto che ci sarà anche lui e parleremo di etica, di bellezza, di recupero del territorio e di cittadinanza attiva. Quindi questo progetto partirà da ottobre per 4 settimane, è un progetto interfacoltà e vi invitiamo tutti a partecipare, poi vi daremo più informazioni. Noi ci siamo. Sì, noi ci siamo. E voi? Come stai? Ci piace molto questa domanda. E anche oltre a Settis abbiamo adescato altri uomini. Un bel. Bellissimo. Con degli occhi azzurri molto belli. E infatti Piff, dici? Peppe? Sì, Piff vi saluta tutti quanti. Non è potuto venire alla festa a maggio. Sappiamo che lo desiderate tanto e spero per sentirlo, per ascoltarlo. Sì. Per raccontarci del suo lavoro. Piff, ci sarà anche lui. Vabbè dai, sì. Piff capisci, cioè devi comprenderci, siamo 30 ragazze, due ragazzi. Io vi voglio vedere così estroverse con Piff quando poi arriva. Poi c'è anche Pietro che non mi sembra esattamente una ragazza. Ma Pietro, Pietro. Io non capisco queste lamentele sull'insufficienza maschile o pseudotale. Facciamo un appello. Infatti. Noi dovremmo lamentarci dell'eccessività femminile. Maschi, sì, venite, sì. Venite. Da settembre sono aperte le iscrizioni. Organizziamo Rovini. Partite di calcio. E rutto libero. E dopo aver pubblicizzato anche la gara di rutto libero possiamo veramente salutarci. Sì, giunta l'ora direi. Beh, ringraziamo tutti che sono partecipati quest'anno. Proprio tutti quelli che sono partecipati. Quelli che hanno partecipato. Salutiamo i nostri ascoltatori. Abbiate pazienza, Stefano ha scritto oggi con me un articolo a 4 mani per il prossimo numero di Liberi. Tu non sai scrivere, Peppe, comunque. E infatti com'era che abbiamo partecipato? Esatto. Sì, che abbiamo partecipato, perché l'hai detto tu che sono partecipati, non si dice mica. Ma ci siamo io e Marghe che vi correggiamo. Per fortuna, eh. Comunque ringraziamo anche Mingo e Radio Città Fujiko per averci dato questo spazio. Speriamo l'anno prossimo di ritornare, ma sì, dai, ritorneremo. Dai, Mingo, su. E forse... Ma continuiamo a sentirci comunque in estate attraverso la nostra pagina Facebook, vi ricordo a tutti, Presidio Universitario Libera Bologna, ci trovate su Facebook e anzi ci fareste un gran favore se aumentiamo con quei mi piace perché siamo davvero sotto, ragazzi. Beh, adesso noi vi lasciamo sul serio con una canzone. King of the Bongo, Manu Ciao. Ciao a tutti. Ciao, le vacanze. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. I went to the big town where there is a lot of sound, from the jungle to the city looking for a bigger crown. So I play my bongo for the people of big city, but they don't go crazy when I banging on my boogie. I'm the king of the bongo, king of the bongo.